Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 26 marzo 2015. Egnos e Galileo. L'innovazione agricola passa per lo spazio. Il sistema europeo Egnos, che migliora l'accuratezza del GPS, un servizio pubblico gratuito già molto usato dagli agricoltori europei nella guida dei propri mezzi di lavoro, ha ora un nuovo compagno che ne migliora le prestazioni. In questi giorni è stato fissato il lancio del sistema satellitare europeo Galileo, che potenzierà gli effetti positivi dell'applicazione del satellite anche all'attività agricola. È un altro importante passo della nuova agricoltura di precisione, che permette di rendere più efficiente, meno costoso e più ecologico l'uso di macchinari nei campi di tutto il mondo. Fin qui la notizia del 26 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. GSA, cioè la European GNSS Agency, è l'agenzia europea che si occupa dei programmi di navigazione satellitare Egnos e Galileo, con l'obiettivo dello sviluppo delle applicazioni di questi sistemi nei vari settori. Fiammetta Diani è Marketing Development Officer di GSA. Oggi abbiamo già in Europa un sistema di navigazione satellitare che si chiama Egnos, un'infrastruttura europea che migliora l'accuratezza del sistema di posizionamento americano GPS su tutto il territorio europeo. Egnos è stato introdotto per l'aviazione civile, ma di fatto già utilizzato dagli agricoltori europei. Infatti con Egnos si può avere un ausilio alla guida del trattore che permette di ottimizzare le operazioni di spraying e di semina, cioè si ha una maggiore precisione, una minore sovrapposizione nei vari passaggi che vengono compiuti per trattare un campo con dei nutrienti o per la semina. Però l'Europa non sta facendo solo Egnos, ma sta realizzando un nuovo sistema di navigazione satellitare su scala globale che si chiama Galileo e che sarà operativo a partire dal 2015. E quello che Galileo porterà agli agricoltori è la possibilità, in primo luogo, di usare i satelliti GPS insieme ai satelliti Galileo e quindi una maggiore disponibilità del segnale anche in presenza di ostacoli naturali o di edifici. In secondo luogo avrà una seconda frequenza civile che si chiama 5, che permetterà agli agricoltori di avere dei ricevitori a doppia frequenza alla portata anche del settore agricolo, e un terzo vantaggio, un servizio professionale ad alta precisione che permetterà di arrivare fino al centimetro senza bisogno di sistemi di riferimento a terra. Gli effetti pratici sono prevalentemente 3. Il primo è un risparmio economico per gli agricoltori, che utilizzeranno meno sostanze nutrienti, meno semi. Il secondo vantaggio è un minore impatto sull'ambiente dato dalla minore quantità di sostanze utilizzate. E il terzo, ovviamente, una maggiore qualità dei prodotti agricoli. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.